raggio più lungo. Raggio perfetta, modulazione bella, bella chiara. Bella chiara, Giovanni. Ehi, è già acceso, dai. È già commutato. E devi mettersi la frequenza. Io sì, una canalata, Giovanni. Va benissimo. Va benissimo. Adesso in casa devi provare in lontananza, capito? Ehi, a dopo, dai, Giovanni. Ehi, ciao, ciao, ciao. Gianmaria. Audio. Come la radio questa? Fa piacere, buonasera. Cosa hai detto, tu? Sei masso masso di radio, non ho capito. Cosa hai detto? Sono di radio, vuol dire non c'è batteria. Basso di radio, sì, tu. Un bel basso di radio. Non so se c'è anche Luca. Luca, il segnale è tuo. Però la radio è un bel basso, tu. Guarda, per adesso ho messo il microfono suo. Adesso sì, adesso va bene, c'è 5. Vuol dire che non c'è... Ci ho messo una batteria ricaricabile, però non anda. E vuol dire che non ha caricato nulla, tu? L'ho misurata con il test e mi dà 9. Boh. Ehi, ehi, no, questa va bene, questa con il microfono normale suo va bene, to. L'altra invece praticamente non avevi il radio, bassa, bassa, bassa. E avevo attaccato il coso, l'MP5, mi lasciano andare a batteria. Ehi, l'MP5 non si manca di batterie, io ce li ho sempre di scorta, boh. L'ho dratto, non l'ho dratto, consumo un bel di batteria, non ho capito perché. No, io l'ho tolta la batteria stamattina, come sono andato a togliere, ne è uscito tutto quanto un pari, ne è uscito il pezzo dalla batteria. Allora l'hai lasciata dentro e si è ossidata? No, siccome l'ho smontato, per pulirlo dentro, a pulire il cuscino, ho messo lo spray, gli ho messo nelle manopole, nei potenziometri e nel coso. Allora l'ho tutto ben fatto, so che la batteria questa che ho messo a caricare non anda, è già un'altra volta che l'avevo messa non andava. E allora carica batterie è mezzo andato, ho capito, perché io ce l'ho il carica batterie per le batterie sia da 9 volt che anche quelle da 1,5. Carica bene, non ce n'è problema. Oh, io ho visto che le batterie da 1,5 le carica bene, le carica. E ho misurato con il tester il coso, la batteria. E vede a 9 mi dà. Boh, forse non andava a fare questo microfono. E da 9 volt deve essere, to. Deve essere da 9 volt. Ma deve essere la batteria che non va a questo microfono. Di quelle quadrate da 9 volt hai messo, quelli lì ci vanno. Ma anche l'altra volta gli ho messo la batteria, questa qua ricaricabile non andava. Gli ho messo la batteria di quelle da 9, che non sono ricaricabili. Ma se quella lì funziona va bene. Ah, vuol dire che non accetta quelle batterie lì. Boh. Ah, va, per un pareggio domani e vedo. E cosa vuoi che ti dica? Uia uia! Sono 21, ma questa gira c'ho 27. A voi ce la mettono. Spetta 21, poi frutto. In genere sono tutti in treni nel PMR. Perché qua ogni tanto c'è portante, disturbano, capito? Che gli danno? Ogni tanto gli avvengo da. Casa domani viene la una, gli era poco volte. Infatti stamattina stavo parlando con un amico e si è un po' incazzato perché abbiamo letto la zona appunto più o meno dove il segnale era più forte, diciamo, ma non è che abbiamo accusato nessuno. C'è il cazzo di zio, non è buono portante, ma nessuno sta dicendo che mette la portante tu. Però chi è vicino lì, cazzo di arrivare a fondo scala, a parte arrivava a fondo scala anche a me, quindi è chiaro che qualcuno che è ben organizzato, poi dare se sono lo bui di cuscino, ma il nome non ne ha fatto nessuno. Però era un bel forte, non so chi è. Ma si arrangia, io mi sto rompendo le balle perché tutte le volte ci sono. ci sono delle discussioni, capito? Entri in Oga e ci sono discussioni, vai lì e per l'abortante c'è discussione, ravveniti in bassa ragana, ti rampa il dutto, lo gomolo, piano piano, infatti ne c'è un buco del dutto. Sì, gira gira. Sì, ho ogni addanto il buon ascolto e boh. E non è che entro. Ah, ogni tanto. Se quando vengo così sul dutto e me ne sto davanti al computer, se no mi si fa raggioso mi pongo a travagliare giusto. E ho capito, Tomas, cazzo, che se uno serve per privare di tutto, boh, anche imbecilli. Cioè, la radio usala per parlare, perché la devi usare per disturbare? Non ha nessun significato, ho capito. Non capisco perché, boh. Comunque, ognuno fa quello che le piace e facciano. No, no, io non voglio più entrare in discussione con nessuno. Se posso parlare, parlo, se no spengo e basta, no? Mi sono rotto le scatole di stare a discutere con la gente, tanto mi... Se fai qualcosa, non fai lì, o fai qualcosa, sei sempre in mezzo, sei sempre nella bocca della gente, quindi ravvini, la cosa c'è. E infatti, tu vieni sta calmi, sei lasciati, hanno fatto nei russi, figli su, di tutto canto, e arrivederci, e rientro di domani. Se fai così russi, sto qua un abbatti. E infatti così sto facendo io, se posso parlare parlo, se non posso parlare pazienza. Non me ne affutti nulla, e cosa vuoi ti faccio? Non capisco perché, però c'è sempre qualcuno che debba disturbare. Già non vedi più nessuno, siamo quattro gatti, giusto per ammazzare il tempo, perlomeno. Quelli che sono a casa, in pensione, quelli che non stanno facendo niente. Poi gli altri magari sono impegnati al lavoro mattina e sera, capito? Io quando lavoravo di mattina, vabbè, non c'ero mai. D'estate rientravo a casa sempre alle 5 e 6, perciò poca voglia ne avevo di fare radio. Ma va, sei a casa, cosa fai? Giusto per ammazzare il tempo, per comunicare con qualcuno, non è poi sempre al telefono. Ma io spengo il baracchino o ti metto l'importante? E io lo spengo, non è che ho problemi, Adesso non lo faccio vittoria, allora non c'è gusto. No, sì. Tanto anche se fai lotte, le lotte sono finite, oramai le fasi di... i giovani le lotte. Vabbè, ma se tu telefoni e senti anche la voce, boh, non ho capito. Sì, hai detto, è l'abortante. C'è l'abortante? Pazienza, come ti dico. Tu, il torre che non è finito in radio. C'è la base di tutti e due. Ciao, ti. Buonasera. Sì, vabbè. Non mi importa. Senti, voce a che cosa, Senti, manco va vendata, subito l'abortante. No, vabbè, Tino la passa, anche tutto la passa, non c'è problema. Quindi se la può staccare dove vuole lui. E non è fatto, non c'è problema. Questa è piccolina, qua magari ci difendiamo un po' di più, ma in PMR è un casino, perché sono tutti col portatilino, capito? Allora, Tino, che si dice? Niente, ero al campo a vedere l'allenamento di Gabriele. Ehi, mi senti, sì? 9:30, non trovo di più. E allora non c'è problema. Continua a mettere la portante, fai il tuo lavoro, che ci fai compagnia, avanti, to. Aspetta, andiamo. Almeno se lo tiene più pulito il canale. Ma infatti ci fa un po' di pulizia, no? Almeno ci fa compagnia. Cazzo, faccio che era in agguato. Quanti siamo entrati a portare l'abortante, subito. Che te varia, vai, te varia. C'è su che gente, cazzo. Ho capito. Avanti, Tino, riprendi. Importante, tante cose, è importante. Vabbè, ma è domani ci credi il vostro, e quindi metto la portante. Ci fa compagnia, va bene così. Ottimo per la truppa. Vorrei me ne gava, a lo manco. Non è niente questo. Pensavo meglio. Oia, come noi. Quindi ha finito l'allenamento tutto a posto? Sì, avete parlato in due. Sì, ha finito poc'anzi, distrutto come non mai, perché adesso ha ripreso anche la scuola, quindi lo sveglio io alle 7, alle 7:30 deve essere già in piedi, poi si prende il sirio e va a scuola, capito? Rientra l'una, mezzogiorno e mezza, l'una adesso in questi giorni, e alle 3 ha avuto l'allenamento, ha finito alle 5, quindi è demolito. Ho capito, E vabbè, quando fai sport, poi vai a scuola e tutti questi cose, è chiaro che ti stanchi, ti stanchi, vabbè. Dai giovane, dai, canto li facciamo noi, facciamo tutta una dirada, quindi, alla fine, avanti tu. Sì, piano piano, già si calma anche lui, se vuole andare avanti. Ma abbiamo fatto di peggio, non abbiamo fatto. Io non mi devo se ne rientrava a mezzanotte, l'una. Ha fatto tutto canto. No, io no, io ho 4 e 6 e poi lavoro. Solo che io venivo a recuperarlo ogni tanto. Caspita, tu facevi 24 su 24 allora. Quando è la macchina che ci scappa il panino, il birretto, tutto quanto, poi lo cocco e ti addormenti e ti svegli alle 4 del mattino, insomma. Guarda qua, siamo io piglio del verde. Ah, canto mi hai muovato tutti, canto mi hai muovato tutta una dirada. Tu sono le scivi, canto mi dobbiamo andare a lavorare. Ehi, vabbè, ci andavamo lo stesso. Allora, sì, ma infatti, adesso però i ragazzi di oggi si stancano, beh, no, non è più come prima, no? Prima era diverso, prima facevamo di tutto e di più, vero Eto? Infatti, prima si faceva, non erano i telefonini, avvisa. Ah ma invece i telefonini, avvisi, guarda che non rientro, vabbè. Ah, prima invece non era così. Prima c'erano i telefonini, non c'erano telefonini, adesso a 9-10 anni c'è già il telefonino, ma è anche una cosa giusta per comunicare con i genitori, capito? Però prima non va via minuta, prima dovevi dire ai genitori, mica sto uscendo, sono qua e ci vediamo a una certa ora, capito? E rientro a casa a quest'ora. Allora invece gli altri comuni, dove sei? Con chi sei? Sei per sei? Sono gli altri comuni, sono tutti a telefono in mano. Vai ti. Sì, vabbè. Diciamo che prima era, perlomeno io parlo per la mia infanzia, per la mia giovinezza, era più bella, più... Oggi non fanno altro che uscendo dal ventre, dalla mamma, e accendendo sul telefonino, quindi... Insomma non so, ma dormo anche con... Io ho i miei nipoti che sono... Allora, quindi figli di mia sera ad Alghero, ne hanno una 12, la piccola, e il grande mi sembra ne ha 16 o 14, adesso non mi ricordo. Cazzo di nebbia, ne gru telefonino in mano, dormono col telefonino acceso sotto il cuscino. Ma cosa ne fai? Perché è una compagnia virtuale, no? Magari chattano con gli amici fino a tardi, dopodiché si addormentano. Come succede con mio figlio? Va bene, io molte volte entro verso mezzanotte e mezzo, te lo trovo il telefono in mano, addormito. Prendo, te lo spengo e ciccia, televisione accesa, ventilatore, Giulia. Ci aveva via minuti prima tutti questi cose. Quante volte un caldo a casa di mamma, cazzo, per carità, a dormire buongiorno, ma già non mi ripigiavo tutto butto alla zizola, altro che ventilatori, vedani, atto. Purtroppo, giovane di adesso, quando eravamo noi così, c'era mia madre che no. Mi dice a me che sto uscendo, e chi da mi dice a me che ora rientri, sai cosa mi gioco? Ma si stava in piedi, ma si stava. Ma guarda, io devo dire la verità, la mia droga nell'89 era rientrando dalla destra, accendendo il baracchino, quando sveglio sino alle 4-5 del mattino, che poi neanche dormivo perché poi prendevo la macchina e andavo a Panau. E quando avevo un assentino con la benzina degli altri. E allora, quello era il nostro telefono di allora, perché a fin dei conti anche quello lì era una sorta di comunicazione, insomma, però non te lo potevi portare appresso perché, già ci ho provato il 127 a piazza del 140, Sì, ma l'avevo messo sopra CD io della macchina lo stesso, cosa a quel era. Boh, solo che era un casino allora, ti ricordi. Era buco il manicomio, c'era un bel di gente. Però ce l'avevamo in macchina a baracchino, mi ricordo. Io forse ero l'unico che non ne ho usato poco baracchino in macchina. Però tu ce l'avevi nella 127 e anche nell'altra. La prima cosa che facevo bucavo la macchina. Io ci pensavo due volte, sì. Prendevo due misure, io pompa. Me lo ricordo. Tu. Poi chi c'era? Boh, vedi, ce n'erano col baracchino in macchina a quei tempi. Però io mi ricordo nell'86-87 ero già qua in questa casa e praticamente stavamo cazzo fino alle 4 e 5 del mattino, io poi alle 7 mi dovevo alzare per andare a lavoro e mi sdraiavo proprio nel divano, vicendomi. Arrivi in mezzo, a Briurocci, via, una lavata e lavoro, capito? Era una cosa, tutti i santi giorni era così. Senza contare il sabato e la domenica che facevamo dalle 8 di sera alle 8 del mattino. Allucinante era tutto. Lo so, io ce l'ho avuto dagli anni 80, dall'80 in su ce l'ho avuto per un 10 anni e poi l'ho mollato. Faccio venduto tutto canto. Vabbè, ma noi abbiamo, perlomeno io ho iniziato nel 74, sino all'85, 86, no, 80, cosa vuoi dire? 85 ero già a Sassari, perché mi sono soldato la casa nel 87, ma abitavo via Montegrappa. Quindi ci avevi già tutto, capito? Baracchino, tutto, capito? E ci divertivamo così, ammazzavamo il tempo, la greffa era quella di Tino, e quindi. E poi la sera, prima di entrare in radio, ci trovavamo lì al Tremino. Sì, la locomotiva. Esatto, stavamo lì tutta la sera. Poi, vabbè, io a cena, ci sentiamo alla radio. Ciao Anna. Cosa? Che è passata Anna? Sì, mi ha detto chiama, perché se mi c'è. Sono senza bombo, adesso chiamo Antonio e me la faccio portare. Capito? Non Antonio Bombo, è Antonio quello di Via Pascoli. Adesso chiamo e me la faccio portare, dai. Ci sentiamo tra 5 minuti, riprendito. Sì, io ne approfitto perché devo andare a prendere la signora. Ci sentiamo dopo, ci sentiamo, verso le 7. Ok, ciao a tutti e due. Ciao Tino e ciao Claudio. Va bene, vai. Un correx anche io, che faccio qualcosa al computer e poi vediamo. Va bene, ciao, fai, saluto Antonio. Ehi, ciao Tom, c'è la portante sempre, ma già la passi, non c'è problema. Ciao T, ci sentiamo dopo, dai. Già rientro subito, o sono qua o sono nel 10. Allora, ciao. Chiamato, adesso me la porta, dai. Però devo chiudere a Filippo, se non mi mangia tutti i voti. Cosa prendi? Quella da 10 o da 15? Quella da 15 prendi? Una piccola, stretta, alta però, perché c'ho il contenitore nella cucina, capito? Il legno, no? Che è stato fatto con la cucina e quindi entra lì dentro. Vabbè, ma quella da 15? Facciamo i yogurt, non me ne intendo io, cioè da 15. Quella fine è da 15. Boh, io ne avevo una che la usavo nella valuta, che era piccola, era da 10 kg. E quella che utilizzo a casa è da 15, però anche bambolana che era da 25. Ah, cioè da 15 a 25, allora è quella grassa, quella grossa da 25, no, la mia era quella da 15, dai, che è stretta e alta, capito? Perché a mettere quella da 25 è troppo pesante, perché la devi sollevare in peso e mettere dentro il coso. E quello che sto facendo Antonio? Antonio chi? Quello di Via Pascoli, quello dove c'era il fornitore? Sì. A 23 me la sta facendo. Dai, vabbè. È aumentata, però a me mi tiene sempre il prezzo vecchio, capito? Vabbè. Perché me la portava quando ero in Via Pascoli, e quindi mi è sembrato brutto, se no c'è il bombolo che è qua giù, capito? In via Venezia, e glielo fiato, cioè no, fino a quando mi trovo bene, e me la porta su, cioè da Via Pascoli me la porta qua, 23 euro. buio, allora come entra, no, non ne conviene più. No, no, ma già capito Antonio, non è un problema, capito? Io l'ho spiegato, perché non mi trovo bene con lui, perché cambiare? Non fa. Però solo ogni volta che viene, prima o prima non lo fa di entrare, Ugani. Adesso invece li si butta sopra, li morsica tutte le scarpe, per rompere le scarpe, allora lo devo tenere, capito? Eia, no, stavo guardando questa portante che c'ha una ventola, si sente una ventola, però passi tranquillamente, non c'è problema. Spegni la ventola, si sente una ventolina, non so se è un lineare, se è l'alimentatore, no. Manco un bello di gocca. Vabbè, io qua più che ventola sento qualcuno di fuori che arriva a 9, ma a voglia. No, questa è molto più bassa di te, non c'è un problema. Se tu senti a me, io sento a te, è come che non ci sia, però si sente una ventola sotto, quindi. Va bene, dai, mi allontano ti che preparo il posto per la bomba, perché c'è il forno sopra, devo toglierlo. Già sono qua, ci sentiamo dopo, ok? Va bene, dai, se no spingo un pochino di più, ciao. Così proprio lo elimini completamente, non sento manco la ventola, perché il segnale tuo è più alto del suo, anche se è attaccato qualcosa, non lo so, e non mi interessa saperlo. Così proprio lo annienti completamente, si è passato da 9.20 a 9.30, fate un conto, mentre lui è 9.05, ma non è uno dei buoni abortanti che si bacia. Aumenta, e se no non ce ne dai fastidio, e non sei PMR, no che no, fai la brava. Dai, ti che va a preparare il posto, già vieni Mario e non ho preparato niente, già rientro subito. Sì, fai. Questo cos'è, il President? L'HR5005, Picoino. Bisogna segnare, 9 più 30, sì. 9 più 30, quanto? 180, 150? No, adesso sono 100, ma guardami. Magari si sente che sta spingendo, eh? Più di 30 sì adesso. No, ma lo lascio così, l'MLM, tranquillo, tanto non c'è bisogno. Sono io col 440, sto andando con 30 watt di portante e 50 modulati, figurati. Va bene, dai, fammi fare questa operazione, poi già rientro subito. Figlia! Vai. Cazzo bollecco? Per giocare. Cazzo mi manca a me, la gita Luca, se me lo vendi, Guido, ma ne vuoi troppo, siamo a ricomprato quello che c'è lui. No, la mette da una parte, mi sta a fare un po' di casino. Solo che non voglio spendere i soldi così, cazzo. Non fa, intanto non lo uso, ti capito? Mi sono venduto il 48, mi sono venduto il Superstar modificato, ne avevo 3 o 4 tutte modificate belle, una me l'ha fatta Massimiliano, la favolosa, però non le uso, capito? Non le uso, se la biglia il culo. Dai, a dopo, Valo che mi sta chiamando Anna, se no mi rompe le balle bruisce, ciao. Ehi, vai, sono qua. Dica. Allora, vabbè Tino, mi senti? A voglia. Ah, ma qua arriva? Sì, quasi, diciamo 9.18, va. Cazzo, adesso è 9.30. Vabbè. Andare. Ma la bella sei? Non ho capito te. Dove sei, a casa tua, no? No, la 25. Allora, oi. Un treno. Ma allora questo segnale, lui, ma può andare oltre quello smitter? Sei quasi arrivato, eh. Allora con questo arrivo in russo. Cazzo. Ma questo va di più. Sei salito, cioè poco fa eri sul quasi 9.30, eh? Adesso mi sei salito tra il più e il 3. Aspetta un attimino, adesso invece, guarda un po'. È saturato, sì, proprio tra il più e il 3 in mezzo. Perché va troppo quando sei troppo vicino. Vabbè, dai, cambio. Scusa, non posso andare, Lucio, si prendono la ruggine. Si conferma, chi c'è? Aspetta, guarda con questo un attimino. Cioè, ho cambiato ancora la radio. Questa è più chiara, sembra più squillante questa. Questo è il Lincoln, eh. Vabbè, faccio vedere, ma posso mettere la trappola di amplificazione, guarda un po'. Lei è fortissima, sì. Abbasso? Io ti faccio il video e ti faccio ascoltare. No, vabbè, la radio deve essere prepotente, abbassa un pochino, dai. Oh, oh, oh, eccola qua, così forse era come la prima. Sì, va benissimo. E il segnale questo com'è, Lu? Fai? Guarda un pochino. Sì, 9 più 20 a picchi positivi. Va bene, questo è il Lincoln, eh. Vabbè, scusa un attimino che ho gente in verticale. Fai, fai. Sentiamo dopo, Lugarie, che sto aspettando la bombola. Sì, mi sono dimenticato la radio a casa, dai. Come ti ho scritto nel messaggio. E vabbè, facciamo un po' di 27 luci, dai. Non è di buttarci a 20 e mezzo. Lasciamo qua, dai. Sto aspettando la bombola, tu rientro. Sì, va bene, qua. Sono 9 qua. Forti, forti sono. Al monte sì. Sì, fruttami. Che perché non te l'avessi? Ma io non ce l'avevi la mano qua. Perché? Non funziona bene? Ah, no, la sua segnale non era molto forte, capito? Perché ci mancavano i radiali, l'ho provata senza radiali. Ah! Allora, per quello non andava. Che freschina! A Londra. Poi ci sono tronca, per un vento, per la fondere da una parte all'altra. Che a sé ci vuole palo, palo buono, palo innocenti. Sì, ci vuole almeno un... Nulla è. Un fosso. O ti fai un tubo a cannocchiale, tre tubi, capito. Allora viene bene anche a piazzarla. Ma per quello non ce n'è no, grossi come per quell'antenna. Un po' di tempo per un po' di piazzarla e provarla, vedere, anche perché c'ho già il radiale tutto quanto. Sono a Marcetto. A cannocchiare lo fai, tre tubi di bomi. Così ti viene bene anche a piazzarla. Anche dei 10 metri di tubo, più l'antenna che sono pesanti. Di là me l'hai già fatta con 7 metri di tubo, se no. Ascensore, come quel video ti ho fatto vedere mio, una cosa del genere. E non devi faticare. Che fatica di dire. E sto facendo io radiali con frisi già, ce li ho, capito, da 1,60 che ho fatti. Sì, ma in alluminio. Ma quelli voglio tirantati, se no lo sai. Soppizzone. Infatti sono quelli buoni, capito, mi spacca subito. Anche perché quelli invece di frisi, sono 1,60, però sono caricati. Quindi dovresti, dovrebbe essere un po' più esatto, dovresti farli a 2,75 lungo il radiale. Sono l'originale che devi fare. Ma l'originale sono caricati un capito? Sì, gli originali sono caricati sì. Così che e poi deve essere alluminio buono, sennò se ti si ossida dentro poi è un casino. Perché deve essere anodizzato, buono, capito? Infatti, è quello che sto dicendo. Io sono da una 60 che ho fatto. Ma l'ho provato ancora se funziona. Non lo so. E già funziona lo stesso, non è. Capito, non è una misura critica. Il problema è che io l'altra volta quando l'ho piazzata c'era solo due radiali. E poi mi ero dimenticato di stringere il corpo del piede, il pugnato. Non avevo saldato neanche il filo, però oggi lui si provò e aveva aggiunto la pannata, ma che punto in terra. E me l'ho buttata giù. Sì, sì, sì. Uno gasotto este. Vabbè, ho già piazzato, è buono il dirante, da voi si appuscio, per rimanere che vi ha vita. Ma infatti, se la piazza non è di un buco. Ti chiami qualcuno che è lì vicino, che ti aiuta quell'attimo. Ah, già ce la faccio a spostare da su, perché c'è già il tubo, capito? Lo posso abbassare, c'è la possibilità di abbassarlo, come ti di tutto, so. Fai 8 metri, fai 7 metri, un metro lo lascio dentro, e più l'antenna, l'antenna è 5 metri 80. La 50 anni, quindi la buca dovrebbe andare meglio di quella recente. Vabbè, ma no, la manto fa una... è la regina delle antenne per la 27 che non tronca il vento eccetera eccetera. E gli ho da gruscia, non ti preoccupare, è robusta come antenna. Adesso ragazzi, ho già preparato una cosa che è la monto su con 213 e poi la provo a vedere come fa. Cos'era 5? Già va benissimo come antenna, va benissimo. Ah, io ai tempi che furono negli anni 90 la prima e unica antenna è stata la Mantova 1. Però non la fanno più quella lì. Io questa qua ce l'avevo qua a casa, l'avevo smartellata da quanto e poi l'avevo lasciata su tutto. Un giorno sono salito, l'ho portata giù, l'ho tutta pulita, sistemata ed è pronta a piazzare. Addirittura c'erano i tubi perché tu l'avevo piegati io. Quindi tutti questi tubi che c'erano li ho tutti e li ho recuperato un arringo e ho recuperato tutti questi l'alluminio, capito, quelli che avevo piegati, quindi sì, esatto. Sì, sì, sì. Allora, a me se ti impegno un giorno, una mattina, intanto adesso arriva l'inverno, lo saprai. Vai fatto una mattina scendo e ce l'ha tutto su a provarla, dai. Ma dovrebbe andare bene, quindi. Calamari entrando ne stanno, non sai niente. Qualcosa? Calamari. No, adesso sta andando, Luca. Adesso dovrebbero cominciare adesso ottobre, dicembre. L'anno scorso mi pare che era settembre, fine settembre. C'era proprio il passaggio, dai. Sì. Lo so cos'è, che devi andare di notte, sarà freddo. Con la canna, magari metti di lui, tre, da due, non riesco a mangiare più, un casino. Quello è. Ah, anche all'imbrunire va bene, non c'è bisogno di andare a mezzanotte, no? Che andare come se andrò buccio. E infatti mangia come comincia a indrumire, poi mangia si fa, la mangiata comincia a farla dalle 6 fino alle 8, che a mezzo, e poi non mangia più. Fatto la propagazione alle tappelle a Franco. Claro, sto scendo con l'antennino, già che qui sto scendo basso per quello, sto scendo con l'antennino piccolino, capito? Fra, ma questa antenna quando era a piazzi, mamma mia, gara. Ma come ti vai, dottor Inverro, a far vedere un chita, se c'è propagazione ti copre, fra. Adesso la devo cambiare sì, adesso come stanno sistemando su, appena che finiscono su nel coso la metto su. Ehi, è bello. Io stavo dicendo anch'io, cazzo sono 995 qua, capito, la propagazione. No, gli sinefemme lo dappano, lo coprono alla grande, beh non vi sa lui, hai contattato qualcuno? Mi devono far sapere. Già ce n'è interessati. No, spasso solo la voce, non ho messo nessun annuncio, capito? Spasso solo la voce tramite telefono. Ehi, poi ci organizziamo, lascia passare questa bufera, ci organizziamo la mattina. se si accasa, lo dico anche a Toso, a Luca, capito? Fermo Luca Luca, e la faremo il gatto antenna che mi rompi due le balle, così ti fai le foto, tutto, anzi te lo butti direttamente, lo pulisci bene, tutto, ti ho la scatola e te lo porti via. Perché te l'ho detto, se c'è l'interessato, se non manterrà niente, capito, la fa aspettare, e dopo due chiedi magari dice non mi serve più, o non, anche non quando è più di là magari, quello è il casino, meglio che ce l'hai giù, pronto a spedire. No, Lu, guarda, l'avrei fatto tra sabato e domenica, ma il tempo è brutto, oddio, non lo so se è solo venerdì e sabato, però domenica non si fa perché insomma uno è impegnato con la famiglia eccetera, però la prossima settimana, la prima giornata bella che fa, o di mattina o di pomeriggio, allora che ti piace, ne faremo tutto. Adesso guardo di nuovo il meteo, mi aspetto. Prova a guardare, certamente sono sempre nata lo 23, casi, boh, pure importante, o ce l'hai con me? Ok, aspetta che ho provato a filosofare. Atto pure un bipi, vai a va, boh. Guarda, io ti consiglio una cosa, se vuoi disturbare, disturba bene, perché non fai niente neanche a Lucca, mica, puoi coprire a Franco California, ma non lo so, vedi tu, non so cosa ti abbiamo fatto, se ce l'hai con me, ce l'hai con me, e continua a mettere la portante, ma non mi fai nulla, Vabbè, io provo a tirare quel pistolo, che non più qua, va, a vedere se arrivo meglio, va. Cioè, cazzo, c'hai anche il bip, a me lo toglierò, no? Senti in quattro, lascia, c'è un bip, e tu poni un bip, complimenti. Vabbè Fra, c'è una portante che a te ti copre, 9,5, quindi Luca non le colica manco il pelo, a te sì, figlia di Lagunedo, perché non so cosa dirti, a Luca manco il pelo le colica. Cosa, che meteo stai guardando Lu? Aspetta. È 8 qua, 8, appena manco il 9 arriva. Sì, qua è 9,5, tu sei 9,20, fatti un gotto, un agio, attacca lineare, danzola, bro, vendi, attaccendi, vendi, boh, lascialo fare, ci fa solo compagnia, però mi sembra di avere, orientativamente di aver già più o meno capito, perché ci aveva il bip, si sente il rumore del microfono, comunque Santiago 9, qua tu sei 9,20, lui non c'è problema, Franco copre, mi dispiace, non so cosa dirle. Se no a me, guardate il segnale. Ti lasciami. Ma non c'è bisogno, non c'è bisogno. Non c'è bisogno, ho detto che 9,5, si intende una ventola, l'altura va via un bip, ne sente poco di casino, si sente il rumore del MBP5, deve essere qualcosa del genere. È misera, capito, non fa niente. Ma Quattino copriva poco fa, Franco lo copre perché Franco è Santiago 8 e lui è 9,5, quindi. E beh, che tempo fa sabato e domenica? Aspetta, ci sono, ci sto entrando. Guarda a vedere, perché a me mi dà venerdì e sabato tempo brutto, domenica tempo bello. Caro Franco, se noto a Trinzi, c'è sempre qualche deficiente, mentre la portante tu sei troppo basso, capito? Guarda un po' adesso, mi ascolti, Claudio. Santiago quasi 9, sì, ma ti passa lo stesso, ma 9,5 la portante fra, forse ti sento sotto, ma non lo so. Allora, domani dalle 7 pioggia fino, c'è tutta la di mezzanotte, il 3, il 5, il 6, ci sono dei momenti che cala, ma poi sabato pioggia, domenica pioggia e lunedì poi pioggia. Cazzo, tutta, anche la prossima settimana pioggia, non è possibile, cazzo, boh. Sì, ma solo lunedì, poi parzialmente nuvoloso per tutto il resto della settimana. Vabbè, se è nuvoloso che non piove. Aspetta un attimo, mi sta chiamando mia moglie Lucaria, un attimino. Avanti Fra. Ehi Luca, adesso sto pilotando con il Polo. Prova dove mi ascolti, dai. No, io ti ascolto sempre, 9,10 sei io Fra. Adesso bisogna vedere Claudio se mi ascolta lui. 1, 2, 3, 4, va bene. più forte che posso fare. Sì, la voglia. Allora, fino alle 11, e poi riprendo alle 3 del mattino, sabato. Ma a me interessa venerdì. Esci da chi? Ti ha mezzo demolito un bassotto tedesco, ero lì a cudirlo adesso. Non ho capito niente. Ho detto che esci da chi era, era aggredito un bassotto tedesco. Poverino, già si può mettere, sì. Ma adesso la ragazza l'ho presa un po' là, dove toccano le unghie così, non è perché ti mangia in piedi, no? Rientrato, no. Sono rientrato, ciao ti. Lui ciao. Oi, ai, ai. Lo minchia, alle 7:05 già buio sta facendo, cazzo. Ma cazzo è che piove, Luca? Quando? Domani. Domani piove. Ehi, domani, venerdì, sabato, non c'è, tregua, domenica e poi lunedì, di nuovo, martedì. Boh, non lo so, io non so se organizzato andare a lavorare o andare a lavorare, boh. Domani tutto il giorno, calma un po', verso le... un pochino, calma però, verso le 4, poi di nuovo forte, poi alle 6 calma, e poi di nuovo tutta la notte, poi sabato, domenica e lunedì. Alleluia! Cosa te lo sto dicendo, te lo sto dicendo, è un casino. È un casino, c'è questa perturbazione di passaggio che è un casino. Vabbè, qualche giorno di riposo, credo. Sì, vabbè, come fate a lavorare? Se sta piovendo non puoi lavorare. Diciamo che dovevamo essere chiusi nel capannone a fare altre cose, ma il capannone è ancora brodo, quindi... Lascia solo, dopo che mettono a posto la nazione veniva male, quindi ho sospeso un po', poi ci sono messi a fare altro e niente. Ci devo organizzare con la scaleria, capito? Per arrivare, perché è molto alto il capannone. No, ho capito. Quindi praticamente potete, anche se non lavorate fuori, dai, potete lavorare anche dentro il capannone. Via, ma scusa un attimo, la gente in verticale, sono qua in corrente. Eia, riprendi lui. Claudio. Eia, fra. Guarda un po' adesso se va meglio, 1, 2, 3, 4. Sì, tu vai meglio, non c'è problema. Sì, Santiago 9, però la portante ti passa a te, perché è 9,5, capito? Mentre a Luca e Tino sono 9,20, 9,30, quindi no, non c'è problema. Ma stavo dicendo, il segnale è più forte di poco fa, perché se lo sto pilotando con un bipolo autocostruito? Questo è molto meglio il segnale, fra. Si è passato da 5 a quasi 9. Aspetta che aumentiamo ancora un altro po', dai. Vediamo un po', aspetta, Ma quando mai, fra, cioè, hai piantato l'antenna a mezzogiorno, di cazzo, non riesci? Ma ti servono tubi, cosa ti serve? Dimmi, ti serve una mano? Cosa dicevi, fra? Mi lo dici, scendo, la piazziamo questa antenna. Dai, devo piazzare giù, capito? Solo che adesso, in questo tempo, non puoi fare niente. Adesso sto aspettando che finiscano i lavori sul tetto, qua, e dopo la monto su. Sì, ma non c'è bisogno di metterla sopra il tetto, no, fra? Cioè, si fanno due fuori, si mettono le staffe in facciata e si piazza l'antenna. Lo sai che problemi non ce n'è, basta fare un fischio, Tubi ne abbiamo tutto quello che ti serve, fra, non ce n'è problema, ma piazzala questa antenna, sennò come cazzo fai d'inverno a parlare con questo segnale, se sale la propagazione di dappa. Cazzo, vabbè, poco fa stavo pilotando con l'antennino, adesso sto pilotando con questo di foro, però all'interno non l'ho messo fuori, capito? Ho capito, fra. Ti sento sotto comunque, ti sento sotto la portante a te. Avanti, Luca. Ciao di Polo, fra, che è direttivo il di Polo, capito. Buona zona verticale, e boh, mi ricordo là, si botta sopra la gabbisuglia, a 10 minuti a piazzare l'antenna. Boh, anche se ci sono i lavori in corso, di sabato, boh. Aspetta che mi dura un po' di tempo, Luca, tu la moto sopra, capito? Ehi, fra, capito, ti ho, sta ora lo bip e buccio. Ma tu il bip lo senti di questa portantina, Sì. È un bip di quella radio uguale a quella che c'ha coso, c'ha Marco, no? Però, boh, è lontano comunque, perché si sente molto lontano come dito. Ehi, vabbè, lui poi senti, tutti di no, qua non ti fa assolutamente niente. Mi dispiace per Franco, lo sento sotto comunque, perché la portante 9.5, Franco è 9. Sento, percepisco quello che sta dicendo, ma non è che va bene, capite? A te manco, l'annulli completamente. Però è nella mia zona, capito? Nel senso che è più vicino a me che a te, mi ho più aperto per me che a te, perché a te ti arriva molto più bassa, qua è 9.5, quasi 9.10, una cosa del genere, ma tu sei 9.30, quindi è lo stesso segnale di Tino. C'è la radio di Polo, mi... Cosa, Lu? Lascia attento, quello di Polo! E qua, fuffia! Ragazzi, che devo fare di ping pong, un po' con PMR, un po' con mantiene zoccoli, sì! Attenzione, quello di Colabrodo! Tu pure lo conosci? Oh, Ginko! Ehi, ciao a te, buonasera a tutti comunque! Ciao, ma va a tagliare la spazzola! Porca vita! Tino! Tino! Ehi! Pensa che tu fa la riga e mezzo, perché no, ci ha pagato l'Ubuntu! Quindi avevo ragione che ci vuole la spazzola per tirare i piedi! Cognato sta cosa del spogliatore dell'aiolo, ha detto passala, fai una passata in occhio un attimino. A te ci ha pensato cosa va? A me mi ha fatto i capelli a casa di Tonino, Otti, che stavo facendo lavoro, il giorno che abbiamo piazzato l'antenna. Mi ha fatto le belle, vedo un caso da morire. Cazzo ce ne vuoi che la maglietta andava via più di me. Ma vedi che siete bastardi. Siamo bastardi, la realtà, cazzo cosa ti ho detto, esce la macchinetta a me che ti curo una baciata e tu non te ne vatti va, perché dice che poi escono ancora più lunghi. Ok. Oh. Tu ne hai messo la china, ora ci ho messo un culo invece oggi, per carità, ui. Ma erano ricciolini o lunghi? Sono lunghi, si vorrebbero gli elastici. Oh, mi raccomando, ma il bacino gliel'hai dato, sì? Faceva dare il bacino, cata, glielo sempre sciupiendi. Che mi vuole essere il gel? Carità, sì, l'acqua ti dovrebbe andare quando vediamo bene. Cazzo, rimbalzava. Vabbè, scusate, va, mi sposto due minuti, riprendi qua. Ehi, ehi, a te. No, non me lo dire, no, Lu. Ma perché tu gliele stai facendo le punture? Okra, però l'ago non volevo entrare, cazzo, non sappiamo di andare, sentite Bubucaino che c'è la giungla. Sì, ma fallo un coccio, una lametta, le fai un quadratino e buchi sempre in chivi, ah, ma no è. Passato, cazzo. Mamma mia, perché non si deve dare freddo, se la roba insieme, Okra. Ma Okra. Oh. Adesso mi ha detto, ma è fatta, io sono già rompendo tutto canto. È ancora in posizione io. Hai visto? Ah, ma non è, hai visto? C'hai anche l'amico che ti fa le punture, ragazzi. No, a me me le faceva mia figlia quando stavo facendo il muscoli a voltare, capito? Però se non la senti, se non senti l'ago, vuol dire che c'è mano buona, Luca. No, no, già tranquillo, già apposta, già mano buona. Vabbè. Vuol dire che ne ha fatto altri, se no non si può mettere a fare le punture così, altri ne ha fatto lui. Le faceva mia madre, a mia zia, mi ha insegnato mio padre a me a farle, capito? Ha fatto tipo osso, mio padre infermiere, così. E a Tino, Tino non mi attesse, ma finito hai. Boh, finito, l'ho già fatto da un'ora. Ah, sì, quindi Manuel ha visto, si è a posto, sì, dai. Non c'è problema. Speriamo che vada tutto bene, che passi. Vediamo giù lui. Ehi, Manuè, se ti ha dato queste punture, vuol dire che già va bene. Vuol dire che sono efficaci, vuol dire che ti fanno bene, dai. Ma te lo bippo. Quando è così acuto, le bacille non fanno nulla, capito? Mentre la medicina è una 60, perché va in circolo direttamente, non deve passare dallo stomaco al fegato, capito? E da lui cosa ti fa la cosa, la bacchina, va. Però lui, ho fatto le punture, muscolo e voltere, la verità, mi avevano fatto bene il primo periodo, poi non ne ho fatto più perché dolore non ne avevo e mi ha dato un'altra cura di pastiglie e ti dico che mi ha sistemato, no, è difficile che mi venga il dolore, mentre lui sicuramente la pastiglia non le fa effetto e quindi ha bisogno delle punture, capito Manuel? Per quello è. Io mi auguro solo mi passa, mi auguro solo mi passa il futuro, che riesce a camminare a te, non se non posso uscire, speriamo bene, vai Luca. Beh, dai, che quella fa effetto, è anche abbastanza svelto, di solito dopo la seconda già sei tranquillo, però giustamente un antibiotico bisogna farlo tutto. Tino, riprendi? Ci sei? Ah, è dove c'è la gente. Ma non è che tu già pretendi dalla prima puntura che ti vuoi avere? Aspetta, due, tre, fallo entrare in circolo, bene, e poi vedrai che già ti fa bene. Ma non so se c'è la prima puntura, però è importante che faccia bene questo corso qua, capito? Non è che devo che attorno a pigliare le medicine. Vabbè, ma cosa devi fare? Cioè, te ne ho fatto quanto ne hai fatto tu? Una, due, quanto ne hai fatto io? Una, la prima questa è qua. Cazzo, ti ho fatto la prima, ma non è, cioè la prima puntura non è che puoi fare miracoli, aspetta, magari alla seconda già inizi a sentire meno il dolore, a muoverti meglio. Sì, adesso vediamo, ora, tanto 5 sono, 5 fialette. E di solito sono 5, sì, non è che cambia molto, io ne avevo fatto due scatole, 12, due scatole da 6, capito? Però già dalla seconda, dalla terza mi aveva sistemato, comunque le avevo fatto tutte, non c'era problema. E poi ho smesso, non ne ho fatto più punture. Poi lavorando mi è venuto di nuovo il dolore e allora mi aveva dato le pastiglie, quella è il tral, capito? Vai Luca. Se poi le richiede altre il medico si fanno, capito? Non c'è problema. Ma infatti, se te ne chiede altre te le fai fare. Se no, pazienza, tratti e continui ad andare così. No, mi auguro di no, speriamo che passa, che mi passi, che mi faccia camminare tranquillo. Cazzo, sono passati a rimani, cazzo, ma ho fatto da Palazzo Rosa fino a Rimiciclo, mi sono confermato roba di 10 luci, anche non me la quasi, questi 2000 anni di nacchi. Sì, ma non è, capitina, boh. Cioè, tu devi capire che per quello che hai, non è che una buntura, una battiglia di vasive, io di Ailtra, sai quante scatole ne ho preso già, mi pare 3 o 4, e ci sono 20 pastiglie, non è che ce n'è una, 20 ce n'è, Manuel, quindi è così, devi aspettare, piano piano, vedrai già ti passa, vai Lu. Cazzo, se non ribassa, cioè io perlomeno io non ho mai sentito nessuno che con una cura di antibiotici come muscoli nel voltare che non siano passati dolori, io non l'ho mai intesa, che è una cosa per me è ottima, è un'ottima medicina e a molti non gli è più tornato il dolore. Manuel, fa la domanda di pensione. Sì, non lo dirà Faura, ora, non lo dirà a Faura. Fa la domanda di pensione, sai che non ha più tempo. E poi qua, migliorato adesso, 1, 2, 3. Ma togli questo bip, che già sappiamo che radio hai. Mamma mia, gara, non stai facendo niente a nessuno, mi dà fastidio solo il bip, toglilo e continua a mettere la portante senza bip. Cesio Maria, Santiago Nuovo, gioco loro e tre gioco di zenne che ti bastano i dutti. Sento anche a Manuele Ginco e tu continui. E ora se no è nuda che fa, cazzo. Vai, Lu. Come smetti di parlare se sente il bip? Ma magari qualcuno sta cercando di entrare, boh. Ma chi è che è avanti? Se vuoi entrare? Ma vuoi entrare, che stai disturbando? Se mette la portante in ricezione, cioè se uno deve entrare c'è che uno finisce e va vedà, no? Invece fa vedda. Mette la portante quando state parlando voi, ma vi ripeto, come vedete io vi ascolto, quindi no, non me ne affutti nulla, come tecnologia. E beh, fra questo dipolo dov'è che l'hai messo? Dove sono i bracci? L'ho messo su in capitolo. Adesso l'ho messo, l'ho messo su, l'ho messo su, l'ho messo su, l'ho messo su, l'ho capito, ti ho capito, ti ho, va bene. Ma qua è aumentato praticamente dall'antenna che avevi prima a questa qua è aumentato, quindi sicuramente esce in posizione, l'hai messo in posizione buona, beh. Gappa gappa, e tu Manuel, con l'antenna grande stai uscendo? Sempre quella che abbiamo fatto Luca, sempre nel giardino, sempre quella lì, c'è solo una di antenna. Va bene, va bene. Non tu sei quanto è la portante, però lo passi di radio. Tu stai arrivando quanto è la portante, però lo passi perché devi essere leggermente più alto, capito? Luca lo disintegra completamente. Arrazza di piacimento lui, ah? Io fermo Bruno e uscì. Ma aiaia, per carità. Ma dai, che si rimane importante, da rimane venire a un impiamere a fondo scala. Cazzo, pure gli occhi. È qualcuno che non sa cosa fare, si riparte così, capito, Manuè? E c'è non sai bita, isso. Cazzo, tu immaginati che si sente il bip della stessa radio che c'è a Marco, e sappiamo chi ce li ha quelle radio, lo zocco di un microfono uguale, briciglio identico. Vabbè, comunque fregatevi, non vi fa niente, dai, fregatevi, lascialo divertire, vuol dire un altro che faccia gira. Tino, smettila, mamma mia quanto sei penoso, cazzo. Va a crescere a Marco, non mi piace. Thank you.